Mary Poppins apre la porta. Nota esplicativa della stessa autrice Pamela Lyndon Travers. In Inghilterra il 5 di novembre è il giorno di Guy Fawkes. In tempo di pace si celebra con falò nei prati e fuochi di gioia nei parchi, mentre si trascinano i guys o maschere per le strade. I guys sono figure che rappresentano persone impopolari, imbottite di paglia. Dopo averle mostrate a tutti, vengono date alle fiamme nei prati fra grandi e generali acclamazioni. I bambini si anneriscono la faccia, indossano brutti vestiti e vanno attorno chiedendo un soldino per la maschera. Soltanto i più meschini rifiutano di dare qualche soldo. Si dice perciò che saranno immancabilmente visitati dall'estrema cattiva sorte. Il vero Guy Fawkes fu un uomo che prese parte al cosiddetto complotto delle polveri. Fu questa una cospirazione organizzata il 5 novembre del 1605 per far saltare Re Giacomo I e tutto il Parlamento. Ma il complotto fu scoperto a tempo. L'unico risultato fu che Re Giacomo I e il suo Parlamento continuarono a vivere, ma non il povero Guy Fawkes, ucciso con gli altri cospiratori. Ciò nonostante, oggi Guy Fawkes è ricordato, mentre Re Giacomo è dimenticato. In Inghilterra, da quel tempo, il 5 novembre è stato dedicato ai fuochi di gioia. Dal 1605 sino al 1939, ogni prato di paesello della contea aveva il suo falò nel giorno di Guy Fawkes. Nel paesello dove io vivo, nel Sussex, accendevamo il nostro falò nel recinto parrocchiale e ogni anno, appena bruciato il gai, la mucca del parroco soleva danzare. Danzava, mentre le fiamme raggiungevano il cielo e non smetteva finché le ceneri non si erano spente e diventate fredde. Il mattino seguente, ed era sempre la stessa cosa, il curato non aveva latte per fare colazione. Ma è strano pensare che un'umile vacca potesse rallegrarsi così profondamente per la salvezza del Parlamento e di Giacomo I. Purtroppo dal 1939 non ci sono stati falò nei prati dei villaggi, ma i parchi senza luce non sfavillano i fuochi di gioia e le strade sono scure e silenziose. Ma questa oscurità non durerà per sempre. Verrà un altro 5 novembre, se volete, un'altra data in cui i fuochi arderanno in una catena di splendore da un capo all'altro del nostro paese. I bimbi vi balleranno e salteranno attorno come nei tempi andati, si prenderanno l'un l'altro per mano e guarderanno lo scaturire dei razzi e ritorneranno cantando alle loro case, illuminate a giorno. 1. Il 5 di novembre. Era una di quelle mattine desolate e fredde che vi fanno pensare all'imminenza dell'inverno. Il viale dei ciliegi era quieto e silenzioso. La nebbia stava sospesa sul parco come un'ombra. Tutte le case apparivano uguali. Il grigiore della nebbia le avvolgeva interamente. L'asta della bandiera dell'ammiraglio Boom, con il telescopio in cima, era assolutamente invisibile. L'uomo del latte, che stava girovagando per il viale, poteva scorgere a malapena la strada. Davanti alla porta dell'ammiraglio gridò: «Oh, voi, c'è il latte!» E la sua voce risuonò così strana e cavernosa che fece paura a lui stesso. Torno a casa finché la nebbia non si alza, si disse tra sé. Ehi qui, guardate dove andate! Continuò, poiché una forma si era staccata improvvisamente dalla nebbia e lo aveva colpito alla spalla. Una voce gentile e velata gli rispose come in un ronzio: brum brum. Ah, siete voi, disse l'uomo del latte con un sospiro di sollievo. Brum! Ripeté nuovamente lo spazzacamino e si teneva la scopa davanti al viso per ripararsi dall'umidità. Siete fuori di buon'ora, non è vero? Disse l'uomo del latte. Lo spazzacamino fece un cenno con il pollice guantato di nero verso la casa della signorina Lark. Ho dovuto spazzare il camino prima che i cani facessero colazione per evitare che la fuliggine procurasse loro la tosse, spiegò. L'uomo del latte rise sgraziatamente. Era ciò che tutti facevano non appena venivano nominati i due cani della signorina Lark. La nebbia si andava diradando piano piano. Sul viale non v'era ancora il minimo accenno di vita. Uff, disse l'uomo del latte rabbrividendo, tutto questo silenzio mi fa paura. Aveva appena finito di dire questa frase che il viale si svegliò. Un grido improvviso venne da una casa e uno scalpiccio di piedi. Questo è il numero 17, disse lo spazzacamino. Scusami, amico mio, credo che la mia presenza sia necessaria. Cautamente cercò la strada che conduceva alla porta e si trovò nel viale del giardino. Nella casa il signor Banks camminava su e giù dando calci ai mobili dell'ingresso. Che cosa mi tocca di sopportare ancora? Gridava agitando selvaggiamente le braccia. Continui a dir così, disse quasi piangendo la signora Banks. Ma non vuoi dirmene il motivo? E guardò ansiosamente il signor Banks. Tutto! Egli ringhiò. Guarda un po' questo! E le mostrò il piede destro. E questo! Continuò dimenando il sinistro. La signora Banks scrutò da vicino i piedi del marito. Aveva la vista corta e l'ingresso era buio. Io non vedo nulla che non vada, cominciò a dire timidamente. Non vedi, naturalmente, disse lui con tono sarcastico. Ben inteso, è soltanto la mia immaginazione che mi fa credere che Robertson Amy abbia dato una scarpa nera e una marrone. E di nuovo agitò i piedi. Oh! Disse precipitosamente la signora Banks, e adesso capiva. Puoi ben dire oh! E così dirà il signor Robertson Amy domani sera quando lo licenzierò. Non è colpa sua, papà, gridò Jane dal piano superiore. A causa della nebbia non poteva vedere. Inoltre non è robusto. È abbastanza robusto per rendermi la vita impossibile, disse il signor Banks irosamente. Ha bisogno di rimanere, papà, gli ricordò Michael precipitandosi giù dopo Jane. Sarà licenziato, minacciò il signor Banks mentre afferrava la borsa. Quando penso a tutto ciò che avrei potuto fare se non fossi stato sposato, avrei vissuto magari da solo in una caverna. Oppure avrei potuto fare il giro del mondo. E che cosa avremmo fatto noi allora? Chiese Michael. Avreste dovuto guadagnarvi la vita e avreste avuto ciò che meritate. Dov'è il mio soprabito? L'hai indosso? Disse umilmente la signora Banks. Ah, sì, egli rispose, con un solo bottone. Ma qualunque cosa è abbastanza buona per me. Io sono soltanto l'uomo che paga i conti. Non pranzerò a casa oggi. Un gemito di protesta da parte dei bambini. Ma è il giorno di Guy Fawkes, disse la signora Banks per allettare il marito, e tu sei tanto bravo nel lanciare i razzi. Non esistono fuochi d'artificio per me, gridò ancora il signor Banks. Non ho altro che dispiaceri, da mane a sera. Scosse la signora Banks per il braccio e si precipitò fuori di casa. Mi stringa la mano, gli gridò lo spazzacamino con voce gioconda quando il signor Banks urtò contro di lui. Lo sa che porta fortuna stringere la mano a uno spazzacamino. Via, via, urlò il signor Banks. Questo non è giorno di festa per me. Lo spazzacamino lo guardò attentamente, poi sorrise a se stesso e suonò il campanello. Jane e Michael si precipitarono verso la signora Banks e le si aggrapparono alla sottana dicendo: Non rimarrà fuori davvero il babbo. Che ne dici, mamma? Ritornerà a casa per i fuochi di artificio? Oh, non vi posso promettere nulla, miei cari. Ella sospirò mentre si dava uno sguardo al viso nello specchio dell'atrio e pensò fra sé: Certo, sto diventando sempre più magra. Una delle mie fossette sulla faccia se n'è già andata e quanto prima perderò anche l'altra. Nessuno più mi guarderà. E tutto ciò per colpa sua. Intendeva alludere a Mary Poppins, che era stata la bambinaia dei suoi figli. Fino a quando Mary Poppins era rimasta in casa ogni cosa era andata liscia, ma da quando li aveva lasciati, improvvisamente, senza una parola di preavviso, la vita in famiglia era andata di male in peggio. E sono giunta a questo punto, pensò disfatta e avvilita la signora Banks, con cinque bambini tremendi e nessuno che mi aiuti. Ho messo annunci sui giornali, ho chiesto a tutte le mie amiche, ma finora senza risultato. George è di un umore sempre peggiore, Annabella che mette i denti, Jane e Michael e i gemelli sempre più monelli, per non parlare di questa terribile tassa sulla ricchezza mobile. Nello specchio vide una lacrima scorrerle là dove prima era quella graziosa fossetta. Non è veramente brillante la situazione, disse, e con improvvisa risolutezza dovrò far chiamare la signora Andrew. I quattro bambini si misero in coro a gridare. Persino Annabella protestò su nella stanza dei bambini, perché la signora Andrew era stata in altri tempi la governante del loro babbo e si sapevano quanto fosse temibile. Io non voglio nemmeno parlarle, esclamò rabbiosamente Jane. Appena sarà qui, sputerò sulle sue scarpe, minacciò Michael. No, no, implorarono umilmente Giovannino e Barbara. La signora Banks si turò le orecchie con le mani e gridò disperata. Bambini miei, abbiate pietà di me. Scusi, signora, disse Ellen, la cameriera, battendo sulla spalla della signora Banks. Lo spazzacamino è qui per il caminetto del salotto, ma le faccio osservare, signora, che oggi è il mio giorno di uscita e non posso pulire quando egli se ne sarà andato. Ecco tutto. E si soffiò il naso con un rumore di tromba. Scusatemi, disse lo spazzacamino giocondamente appena fu entrato con le sue spazzole e i suoi arnesi. Chi è costui? Protestò la signora Brill precipitandosi fuori dalla cucina. Lo spazzacamino, il giorno in cui si cuoce il pane? No, non lo farà. Mi rincresce di doverglielo dire, signora, ma se questo 88 va nel camino, io vado fuori di casa. La signora Banks si guardò attorno disperata. Non sono stata io a chiamarlo. Non so nemmeno se il camino ha bisogno di essere spazzato. Oh, un camino è sempre lieto di un colpo di spazzola. Lo spazzacamino si fermò tranquillamente in salotto e cominciò a disporre i suoi arnesi. La signora Banks guardò nervosamente la signora Brill. Forse Robertson Hay potrebbe aiutare? Disse. Robertson dorme in dispensa, avviluppato nel più bello scialle di pizzo, e soltanto il suono dell'ultimo trombone potrà svegliarlo. E così, se permette, farò il mio bagaglio. Oh, lasciatemi andare, voi, indiano! Lo spazzacamino aveva afferrata la mano della signora Brill e la stringeva con vigore. Il viso di costei spremé un sorriso riluttante. Bene, anche questa ci voleva, disse ella gaiamente mentre discendeva la scala della cucina. Lo spazzacamino si girò verso Ellen con un sorriso. Non toccatemi voi, nero pagano! Strillò con voce terrorizzata. Ma egli le strinse fortemente la mano e anche lei cominciò a ridere. Bene, non sporcatemi il tappeto, lo ammonì e ritornò frettolosamente al suo lavoro. Stringiamoci la mano, disse lo spazzacamino voltandosi verso i bambini. Son sicuro di portarvi fortuna. Lasciò un segno nero su ogni manina, ma tutti si sentirono improvvisamente meglio. Poi tese la mano alla signora Banks. Non appena ella toccò quelle dita calde e nere, tutto il coraggio le tornò. Ciò che posso fare di meglio, ella disse, è di mettere un annuncio per un'altra governante. Forse qualcosa di buono capiterà. Jane e Michael tirarono un sospiro di sollievo. Almeno la mamma non avrebbe assunto la signorina Andrew. Che fate voi quando avete bisogno di avere fortuna? Chiese Jane seguendo lo spazzacamino nel salotto. Oh, non ho che da stringermi le mani io stesso, rispose lui faceto mentre introduceva la spazzola nel camino. Tutto il giorno i bimbi lo osservarono e cercarono di indovinare chi gli porgesse le spazzole. Di tanto in tanto la signora Banks veniva nel salotto per lagnarsi del rumore per indurre lo spazzacamino a sbrigarsi. Tutto il santo giorno, fuori delle finestre, si scorgeva sul viale la nebbia sempre più folta. Ogni rumore e suono era attutito. Gli uccelletti se n'erano andati, ad eccezione di un vecchio e spennato stornello che non smetteva di spiare attraverso le fessure degli scuri, come se stesse cercando qualcuno. Finalmente lo spazzacamino saltò fuori dal camino e sorrise contento del suo lavoro. «Molto gentile», disse la signora Banks in fretta, ma adesso sono certa che avrete voglia di radunare i vostri arnesi e di tornarvene a casa. Oh, non ho fretta, osservò lo spazzacamino. Il mio tè non è pronto fino alle 6 e ho quindi ancora un'ora da far passare. Benissimo, ma non potete farla passare qui, gridò la signora Banks. Devo mettere in ordine questa camera prima che giunga mio marito. Io vi dico che, disse con calma lo spazzacamino, se avete un ragno o due qui, posso condurre con me i bimbi nel parco e farli assistere a qualche fuoco di artificio. Procurerò così un riposo a voi e un grandissimo piacere a me, poiché sono sempre stato molto bravo nei fuochi d'artificio, fin da bambino e anche prima. I piccini esplosero in un grido di gioia. Michael corse alla finestra e discostò la persiana. Oh, guardate che cosa è capitato! Gridò trionfante. Poiché era avvenuto un cambiamento nel viale dei ciliegi. La nebbia fredda e grigia se n'era andata. Le case erano tutte accese di luci calde e dolci. Laggiù a ponente un chiarore di tramonto rosa e vivo scintillava nel cielo. «Non dimenticate i vostri soprabiti!» gridò la signora Banks mentre i bimbi si precipitavano fuori. Poi corse ad aprire l'armadio sotto la scala e ne estrasse un pacco accuratamente confezionato. «Eccoli, eccoli!» disse affannata allo spazzacamino. «Ma mi raccomando, fate attenzione alle scintille!» «Le scintille?» disse lo spazzacamino. «Le scintille sono la mia passione, la fuliggine e le scintille. Tutto il resto non conta niente per me.» Quando egli fu sul viale del giardino, i bimbi gli balzarono intorno come tanti cuccioli. La signora Banks si sedette per riposare 2 minuti. Lo stornello la guardò per un momento, poi scosse la testa, disapprovando, e corse di nuovo via. Quando attraversarono la strada, la luce del giorno declinava. Il lampionaio stava compiendo il suo servizio lungo le cancellate del parco. Accese una candela con un fiammifero e cominciò a tracciare figure sul pavimento. Fece un cenno ai bimbi ed essi si affrettarono a varcare i cancelli. «Ora non abbiamo bisogno che di un prato», disse lo spazzacamino ad alta voce. «Non lo avrete!» esclamò una voce dietro di loro, «poiché il parco è chiuso alle 5:30.» Venne fuori dall'ombra il guardiano del parco con un far di sfida. «Ma è il giorno di Guy Fawkes, il 5 novembre!» risposero con gran premura i bambini. «Gli ordini sono ordini», egli rispose, «e tutti i giorni sono uguali per me». «Benissimo, ma dove possiamo andare per fare i fuochi di artificio?» domandò impaziente Michael. Il guardiano lo fulminò con uno sguardo. «Avete dei fuochi artificiali?» chiese avidamente. «Perché non dirmelo prima?» Prese il pacco dalle mani dello spazzacamino e incominciò a slegarne lo spago. «I fiammiferi! Abbiamo bisogno di fiammiferi!» continuò eccitato, respirando affannato. «Eccoli qui!» disse il lampionaio con voce tranquilla. Egli aveva seguito i bimbi nel parco e stava ritto dietro di loro con la sua candela accesa. Il guardiano del parco aveva intanto slegato un fascio di razzi. «Sono nostri, sapete?» gli ricordò Michael. «Oh, lasciate che vi aiuti!» implorò il guardiano. «Non ho mai più avuto niente di divertente per il giorno di Guy Fawkes, mai più da quando ero ragazzo!» E senza attendere il permesso accese i razzi alla candela del campionaio. Getti di fuoco sibilanti si sparsero e scoppiando raggiunsero i petardi. Il guardiano prese un Catherine Wheel e lo fissò su un ramo. Cerchi di luce cominciarono a girare e ad emettere scintille nell'aria. Dopodiché era così eccitato che nulla ormai poteva più fermarlo. Continuò ad accendere i fusi uno dopo l'altro, come se fosse impazzito. I vasi di fiori si spezzarono sul prato coperto di rugiada e la pioggia d'oro venne giù a torrenti nel buio. Le cime delle piante bruciavano e diffondevano una effimera luce. I palloncini oscillavano sui rami, serpenti di fuoco si attorcigliavano nell'ombra. I bambini saltavano, urlavano, gridavano di gioia. Il guardiano correva in giro fra loro come un enorme cane impazzito. In mezzo al frastuono e al bagliore dei fuochi, il lampionaio aspettava tranquillo. La fiammella della sua candela non vacillava mentre i bimbi vi accendevano i fusi dei razzi. «Adesso!» gridò il guardiano, arrochito per il continuo sforzo di gridare. «Adesso accendiamo i razzi!» Tutti gli altri fuochi erano ormai consumati. Nel parco non rimanevano che 3 lunghi bastoncini neri. «No!» «Questi no», disse lo spazzacamino quando il guardiano li afferrò. «Dividiamoli, questo è il bello», e gli diede al guardiano un razzo e prese gli altri per sé e per i bambini. «Largo, largo!» disse il guardiano con una certa importanza mentre accendeva il fuso alla candela e piantava il bastone nel terreno. Sibilando, la scintilla corse tracciando un filo d'oro, poi ecco che il bastone partì e un colpo che parve una cannonata echeggiò. I bimbi intesero lontano, su in alto, un fracasso indiavolato. Un turbine di stelle rosse e blu inondò d'un tratto il cielo e piovve sul parco. «Oh!» gridarono i bambini. E «Oh!» gridò lo spazzacamino. Perché questa è la sola parola che si può dire quando si sprigionano le stelle da un fuoco d'artificio. E poi fu il turno dello spazzacamino. La luce della candela gli rischiarò la faccia nera mentre gli accendeva il fuso del suo razzo. Fu un altro schianto e un'altra cannonata echeggiò. Stelle bianche e verdi formarono nel cielo un disegno come la raggiera di un grande ombrello, e di nuovo tutti gli spettatori gridarono «Oh!» ed emisero un sospiro di profonda gioia. «Adesso tocca a noi!» esclamarono Jane e Michael. Le loro dita tremavano mentre accendevano il fuso. Conficcarono il bastoncino nel terreno e rimasero in attesa per osservare lo spettacolo. Il fuoco sbocciò come un filo d'oro. «Oh! Oh!» Quasi accompagnandosi con una specie di canto, il bastoncino si illuminò e raggiunse il sommo del cielo. Jane e Michael trattennero il respiro aspettando che scoppiasse e finalmente udirono un fragore fioco e lontano ed attesero di vedere le stelle, ma non accadde nulla, purtroppo. «Oh!» dissero tutti nuovamente, ma questa volta non per la gioia, ma per la delusione, poiché nessuna stella si sprigionò dal terzo razzo. All'ingiro non vi era che oscurità e un cielo desolatamente vuoto. E lo spazzacamino disse «Canaglie, ecco ciò che sono, ce ne sono anche di quelli che non scoppiano». «Bene, adesso andiamo a casa, è inutile stare qui a guardare, ormai è finito. È l'ora della chiusura, fuori, fuori tutti quanti dal parco», disse con una certa importanza il guardiano. Ma Jane e Michael non vi fecero caso. Tenendosi per mano stavano lì ad osservare, perché i loro occhi fiduciosi avevano notato qualcosa che nessun altro poteva aver visto. Su nel cielo, una piccolissima scintilla volteggiava e barcollava nel buio. Che poteva essere? Certamente non il bastoncino del razzo che doveva essere caduto da molto tempo, e neppure una stella. E sì, pensarono, poiché la piccola favilla si muoveva. Michael disse, «Forse è un razzo speciale, che ha una sola scintilla». «Forse», gli rispose Jane, guardando attentamente la debolissima luce. Erano attoniti e tutti insieme guardavano in su. Anche se era soltanto una scintilla, non si sarebbero mossi e avrebbero atteso che venisse giù. Ma cosa strana! La scintilla non voleva uscire, ma stava diventando sempre più grande. «Su, muoviamoci!» incalzava lo spazzacamino. E il guardiano gridò di nuovo, «È l'ora di chiudere!» Malgrado ciò, i bimbi attendevano, e la scintilla diventò sempre più grande e più lucente. Poi, improvvisamente, Jane trattenne il fiato. Michael sussultò. «Oh, era dunque possibile! Poteva dunque avverarsi!» si chiedevano con lo sguardo l'un l'altro. La scintilla discendeva, facendosi sempre più larga e più lunga, e avvicinandosi, prese una forma strana, non conosciuta. Era una curiosa figura, quella che si staccava dal nucleo luminoso. Una figura con un cappello di paglia nero e un mantello blu ornato di bottoni d'argento. Una figura che portava con una mano qualcosa che pareva una borsa da viaggio di tappeto, e nell'altra, ma era dunque vero, un ombrello con il manico raffigurante la testa di un pappagallo. Dietro di loro il lampionaio mise un grido e se ne andò correndo per il parco. La strana figura si dirigeva adesso verso la cima degli alberi spogli. I suoi piedi toccavano il ramo più alto di una quercia e si inoltrarono delicatamente fra i rami. Si fermò per un momento sul ramo più basso e si dondolò con grazia. Jane e Michael corsero e un grido di gioia mozzava loro il respiro. «Mary Poppins! Mary Poppins! Mary Poppins!» Si slanciarono verso di lei, ridendo e piangendo di gioia. «Sei di ritorno, finalmente!» balbettò eccitato Michael mentre afferrava il suo piede graziosamente calzato. Era caldo e ossuto e assolutamente reale e emanava un odore di lucido nero speciale. «Oh, sapevamo che saresti tornata! Avevamo tanta fiducia in te!» Jane afferrò l'altro piede e le tirò violentemente le calze di cotone. L'ombra di un sorriso animò la bocca di Mary Poppins. E poi guardò severamente i bambini. «Fatemi il piacere di lasciare in pace le mie povere scarpe!» disse bruscamente. «Non sono un articolo di magazzino da esaminare». Si divincolò e venne fuori dall'albero, mentre Giovannino e Barbara ruzzolavano sul prato, miagolando come gattini. «Iene!» ella disse, folgorandoli con uno sguardo e sciogliendosi dalle loro mani. «E che? Ho pure il diritto di chiedervi che cosa state facendo tutti quanti correndo per il parco di notte e con quell'aspetto da neri?» In un baleno tirarono fuori i fazzoletti e cominciarono a strofinarsi le guance. «È colpa mia, signorina Poppins», incominciò a scusarsi lo spazzacamino. «Stavo pulendo il caminetto del salotto e bisognerebbe spazzare via voi, se non ve ne andate», ella rispose. «Ma sapete», e con grande meraviglia di tutti, il guardiano, senza proferire parola, sbarrò loro il passo. «Fuori di qui, per favore», disse Mary Poppins, passandogli vicino altera e spingendo dinanzi a sé i bambini. «Questa è la seconda volta», egli sussurrò, ritrovando improvvisamente la voce. «La prima è una multa, e la seconda è... Ma non potete fare cose simili, ve lo dico io, è contro la legge, e poi anche contro natura». Allungò la mano con gesto rapace, e Mary Poppins gli porse un pezzetto di cartone. «E questo cos'è?» domandò l'uomo, girandolo da una parte all'altra. «È il mio biglietto di ritorno», rispose con calma. Jane e Michael si guardarono e ammiccarono con aria d'intesa. «Un biglietto? Che biglietto? I tramvai hanno i biglietti e così anche i treni, ma voi venite qui da non si sa dove. E per dove siete entrata? E come siete qui? È questo che vorrei proprio sapere». «La curiosità uccise il gatto», disse Mary Poppins con sussiego. Spinse il guardiano del parco da una parte e lo lasciò guardare il pezzetto di cartone verde come se fosse uno spettro. Mentre si avviavano verso l'uscita, i bimbi saltellavano e ballavano giocondamente. «Passeggiate con calma», ammonì con una certa aria offesa. «Non siete in una scuola di cetacei. Vorrei anche sapere chi di voi ha voluto giocare con le candele accese». Al lampionaio tremarono le ginocchia. «Le ho accese io, Mary», disse con vivacità. «Volevo scriverti», fece cenno con la mano, e sul pavimento stava scritto, non completamente finita, la parola «Benvenuta». Mary Poppins sorrise alle lettere colorate. «Oh, è certo un affettuoso augurio, Bert», disse dolcemente. Il lampionaio afferrò la sua manina inguantata di nero, la guardò ardentemente e «Ti vedrò giovedì, Mary», le domandò. Ella fece un cenno di assenso e «Certo, Bert, a giovedì», rispose. Lanciò uno sguardo furtivo ai bimbi e «Non perdiamo altro tempo, per piacere», ordinò, mentre li faceva camminare più in fretta verso il numero 17 del viale dei ciliegi. Su, nella camera dei bimbi, Annabella stava piangendo con quanta forza aveva in corpo. La signora Banks correva su e giù nell'atrio pronunciando frasi sconnesse e quando i bimbi aprirono la porta d'ingresso, ebbe appena il tempo di guardare Mary Poppins che cadde estenuata sulla scala. «Siete voi, Mary Poppins!» mormorò in un soffio. «Ma certo, sono io, signora!» disse con calma Mary Poppins. «Ma da dove saltate fuori?» esclamò la signora Banks. «È saltata fuori da un...» Michael era sul punto di dare una spiegazione quando sentì gli occhi di Mary Poppins posarsi su di lui. Egli sapeva benissimo cosa significasse quello sguardo. Balbettò ancora qualche parola e tacque. «Sono venuta dal parco, signora», rispose Mary Poppins con l'aria rassegnata di una martire. «Oh, sia ringraziato il cielo!» sospirò dal più profondo del cuore la signora Banks, poiché si ricordava di tutto quanto le era capitato da quando Mary Poppins li aveva lasciati. «Non debbo, tuttavia, mostrarmi troppo compiaciuta», disse tra sé, «altrimenti ella diventerà più arrogante che mai». «Mi lasciaste senza una parola, Mary Poppins?» riprese con aria dignitosa. «Io credo che potreste avvertirmi quando venite o ve ne andate. Non so mai dove siete». «Nessuno lo sa, signora», fu la calma risposta di Mary Poppins mentre si abbottonava i guanti. «E lo sapete voi stessa?» chiese la signora Banks sconcertata. «Oh, certo che lo sa», rispose Michael imprudentemente, ma Mary Poppins gli lanciò uno sguardo adirato. «Benissimo. Ad ogni modo, per adesso siete qui», concluse la signora Banks. Si sentiva completamente sollevata, poiché ormai non doveva più ricorrere alla signorina Andrew né inserire un annuncio sul giornale per una bambinaia. «Sì, signora, mi scusi», disse Mary Poppins. Elegantemente avanzò per ultima dietro la signora Banks e mise la valigia borsa di tappeto sulla ringhiera. La valigia scivolò dolcemente in salita con un fruscio e balzò direttamente nella stanza dei bimbi. E poi ella diede un colpetto all'ombrello che allargò le sue ali di seta nera come un uccello e volò su dietro alla valigia di tappeto con uno schiamazzo pappagallesco. I bimbi guardavano pieni di stupore e andarono a vedere se la loro mamma avesse notato l'accaduto, ma la signora Banks non aveva pensato ad altro che a correre al telefono. Il camino del salotto è stato pulito. Avremo cotolette d'agnello e piselli per il pranzo e Mary Poppins è tornata, esclamò quasi senza fiato. Non lo credo, strepitò la voce del signor Banks. Verrò a casa per constatare di persona il fatto. La signora Banks sorrise felice, riagganciando il ricevitore. Mary Poppins salì per la prima le scale e i bimbi si precipitarono dopo di lei nelle loro stanze. Sul camino stava la valigia di tappeto e nel suo angolo abituale l'ombrello dalla testa di pappagallo. Tutti e due avevano l'aria di essere sistemati e soddisfatti, come se fossero stati lì da anni. Nella culla, Annabella, con il viso scarlatto, era tutta raggomitolata. Guardò senza sorpresa Mary Poppins e sorrise con la sua boccuccia sdentata. Poi prese la sua aria innocente di angelo e cominciò a tamburellare con le dita dei suoi piedini. «Uff!» disse Mary Poppins con impazienza mentre metteva il suo cappello di paglia nel carbone. Tirò fuori il mantello e lo appese al chiodo dietro la porta. Poi si rimirò nello specchio della stanza dei bimbi e cominciò ad aprire la valigia di tappeto. Non conteneva nulla, salvo un centimetro di nastro. A che serve? Domandò Jane. Serve a misurarvi, rispose Mary in fretta, per vedere quanto siete cresciuti. Non ne abbiamo bisogno, ribatté Michael. Siamo cresciuti di 2 pollici, papà ci ha misurati. Stai su dritto, per favore, disse con calma Mary Poppins, senza far caso all'osservazione. Lo misurò dalla testa ai piedi e sbuffò rumorosamente. Avrei dovuto saperlo, sospirò. Sei cresciuto di male in peggio. Michael rimase allibito. I centimetri non danno parole, ma pollici, cercò di protestare. E da quando? Ella domandò risentita, mentre poneva la fettuccia sotto il naso. Sulla fettuccia erano scritte parole a grandi lettere azzurre. Oh! Disse egli con orrore. Sulla testa, per piacere, ammonì Mary Poppins stendendo il metro contro Jane. E lesse trionfante. Jane è cresciuta in ostinatezza, pigrizia ed egoismo. Lacrime amare si formarono negli occhi di Jane. Oh, non è vero, Mary Poppins! Esclamò, perché, cosa strana, si ricordava soltanto di quando era stata buona. Mary Poppins fece scivolare la fettuccia attorno ai gemelli e il responso fu attaccabrighe e quello di Annabella scontrosa e viziata. Lo pensavo, fu la sua conclusione. Non posso voltare un occhio senza che vi trasformiate in un autentico serraglio. E poi fece scorrere la misura attorno a se stessa e con un sorriso soddisfatto lesse di bene in meglio, praticamente perfetta. Non di più di quanto mi aspettassi, ella dichiarò. E poi aggiunse con uno sguardo furioso. Adesso, in fretta, nella stanza da bagno. Si precipitarono con ardore per obbedirla, poiché adesso che Mary Poppins era ritornata tutto diventava più facile. Si spogliarono e fecero il bagno in un batter d'occhio. Nessuno si fece pregare per mangiare la minestra, nessuno lasciò una briciola o una goccia. Misero le loro sedie a posto, piegarono i tovaglioli e andarono a letto. Mary Poppins passeggiava su e giù per le loro stanze, rimboccando le coltri. Sentivano il vecchio e familiare profumo fatto di una mistura di pane arrostito e di grembiuli inamidati. Potevano indovinare la vecchia e familiare figura, vera, in carne, ossa e reale, sotto i vestiti. La osservavano con adorazione, in silenzio, assaporando la loro felicità. Appena ella ebbe oltrepassato il letto di Michael, questi si chinò di sfuggita a guardarvi sotto. Non vi era nulla, tranne che polvere e pantofole. Scrutò sotto il letto di Jane, neppure qui nulla. E con curiosità si informò: «Ma dove dormirai, Mary Poppins?» Mentre egli parlava, ella toccò la porta del guardaroba. Con un certo rumore e con grazia, in un solo colpo, ne uscì aperto il vecchio letto da campo. Era fatto e pronto per dormirci su. E su di esso, in una fila ordinata, vi era tutto quanto Mary Poppins possedeva: il sapone da toeletta, e le forbici per i capelli, il flaccone di profumo, la sedia pieghevole, lo spazzolino da denti e le pastiglie per la tosse. Le camicie da notte, tanto quelle di lana che quelle di cotone, stavano ordinate sul guanciale, e vicino vi erano le scarpe e il gioco del domino, gli accappatoi da bagno e l'album delle cartoline illustrate. I bimbi, in ammirazione, si alzarono e si allinearono. «Ma com'è saltata fuori tutta questa roba?» esclamò Michael. «Non ve n'era la minima traccia oggi. Lo so perché mi sono nascosto qui per sfuggire a Ellen.» Non osò fare altre domande, già che Mary Poppins lo guardò con tanta alterigia che le parole gli si gelarono sulle labbra. Con un atto di insofferenza ella si girò ed infilò una camicia da notte di flanella. Jane e Michael si scambiarono un'occhiata. I loro sguardi dicevano ciò che le labbra non osavano proferire. «Non dobbiamo aspettarci spiegazioni», si dissero silenziosamente con gli occhi. Continuavano a osservare i suoi movimenti comici di spauracchio mentre sotto la camicia da notte andava spogliandosi. Clic, clic, i bottoni si sbottonavano da soli. Fron, fron, cade giù la gonna. Un senso di pace si impossessò dei bimbi. Ed essi sapevano che tutto veniva da Mary Poppins. Mentre contemplavano rapiti l'ondeggiante camicia da notte, ripensarono a quanto era accaduto, come ella era arrivata la prima volta da loro spinta dal vento di ovest, come il suo ombrello l'aveva portata via quando il vento venne dall'est. Pensarono com'era tornata a loro il giorno che avevano fatto volare l'aquilone e com'era scappata via ancora una volta privandoli della sua cara presenza con la giostra. Bene. Adesso sospirarono felici. Era di ritorno ed era sempre la stessa. Era qui, sistemata in una delle stanze dei bambini, calma come se non li avesse mai lasciati. Tutte queste cose alle quali Michael pensava si sprigionavano come bollicine dall'acqua di Seltz e prima che le potessero fermare erano già sulle labbra. «Oh, Mary Poppins!» esclamò con impazienza. «Senza di te è stato orribile!» Le labbra di lei ebbero un tremito. Sembrava volessero abbozzare un sorriso, ma il sorriso non venne. Voi sì che siete stati terribili, e non basta. E questa casa è ormai una gabbia di orsi. Mi meraviglio che qualcuno ci possa stare. Ma tu ci starai, non è vero? Replicò Michael, sperando di lusingarla. Saremo buoni come oro filato, se tu rimani, promise solennemente Jane. Mary Poppins li guardò uno dopo l'altro con calma, scrutando direttamente nei loro cuori e comprendendo tutto. Rimarrò, rispose dopo una breve pausa. Rimarrò fino a quando la porta si aprirà. Mentre parlava, guardava pensosamente la porta della camera dei bambini. Jane emise un grido di pena. Oh, non dire questo, Mary Poppins! E la piagnucolò. Quella porta sta sempre aperta! Mary Poppins la fulminò con lo sguardo. Intendo parlare dell'altra porta, disse abbottonandosi la camicia. Che cosa intende dire? Mormorò Jane a Michael. Io so che cosa intende dire, rispose furbescamente Michael. Qui non c'è nessun'altra porta, e una porta che non c'è non può aprirsi. Così ella rimarrà sempre con noi, e si sentì tutto felice a questo pensiero. Tuttavia, Jane non era molto sicura. Mi stupisce, pensava fra sé. Ma Michael ricominciò a parlottare gaiamente. Oh, sono contento di aver stretto la mano allo spazzacamino, disse. Egli ha portato davvero fortuna. Forse è qui vicino e desidera stringere la mano anche a te, Mary Poppins. Pah, rispose lei scrollando il capo. Grazie tante, io non ho bisogno di nessuna fortuna. No, assentì Michael pensoso. Tu non ne hai bisogno. Chi può venire fuori da un razzo come hai fatto tu questa sera deve essere nato fortunato. Io intendo. Oh, non guardarmi così! Emise un grido di paura perché Mary Poppins lo stava fulminando con uno sguardo tale che lo annichilì. Impalata, nella sua camicia da notte di flanella, sembrava che volesse agghiacciarlo nel suo caldo lettuccio. «Mi domando se ti ho capito bene», domandò con voce glaciale. «Mi è sembrato di capire che tu parli di me come se fra me e un razzo esistesse qualche nesso?» E disse la parola razzo in tal modo da farlo sembrare addirittura micidiale. Terrorizzato, Michael si guardò attorno, ma nessun aiuto gli venne dai fratellini. Tuttavia, egli era sicuro del fatto suo. «Ma sì, Mary Poppins», continuò coraggiosamente, «il razzo venne giù all'improvviso con uno scoppio e tu vi eri dentro e sei piombata giù dal cielo». Mary Poppins pareva ingigantita mentre si avvicinava a lui. «All'improvviso?» ripeté adirata. «Io apparii all'improvviso e venni fuori da un razzo?» Egli si ritrasse un po' contro il guanciale. «Ma certo, così perlomeno ci è sembrato, non è vero, Jane?» «Shh!» sussurrò Jane, disapprovando. Sapeva che non era il caso di insistere sull'argomento. «Debbo dirtelo, Mary Poppins, ti abbiamo vista», continuò invece Michael piangendo. «E se non sei venuta fuori da un razzo, da dove sei venuta? Non c'era nemmeno una stella!» «Con uno scoppio», riprese Mary Poppins furibonda. «Fuori da un razzo con uno scoppio!» «Molte volte mi hai insultata, Michael Banks, ma mai come questa volta. Se sento ancora qualcosa sugli scoppi o sui razzi...» Ella non disse cosa sarebbe capitato, ma il bambino sapeva che sarebbe accaduto qualcosa di terribile. «Cip, cip!» Una vocina chiamò dal davanzale della finestra. Un vecchio stornello guardò nella camera dei bimbi e sbatté concitato le ali. Mary Poppins corse alla finestra. «Va via, spaventapasseri!» disse fieramente. Mentre lo stornello si allontanava, spense la luce e si mise a letto. I bimbi la sentirono mormorare con rabbia. «Scoppio!» mentre si tirava su le lenzuola. Poi il silenzio si addensò su di loro come una nuvola soffice e confortevole. Erano quasi addormentati quando un lievissimo mormorio giunse dal letto di Jane. «Michael!» disse ella in un cauto sussurro appena percettibile. Michael si rizzò pian piano sul letto e guardò nella direzione indicata da Jane. Dall'angolo del camino veniva un lieve rossore ed essi videro che le pieghe dell'ombrello dal manico in forma di pappagallo erano piene di stelle colorate, quelle specie di stelle che si vedono quando un razzo scoppia in cielo. I loro occhi si allargarono di sorpresa quando la testa di pappagallo si chinò giù. Poi, uno alla volta, il becco del pappagallo raccolse le stelle dalle pieghe di seta e le gettò sul pavimento. Dorate e argentate, le stelle brillarono per un momento, poi si spensero. Allora la testa del pappagallo si erse sul manico e l'ombrello nero di Mary Poppins rimase ritto e quieto nel suo angolo. I bimbi si guardarono e sorrisero, ma non dissero più nulla. Potevano soltanto ammirare e rimanere zitti. Sapevano che non vi erano sufficienti parole nel dizionario per esprimere quanto capitava con Mary Poppins. «Tic, toc», disse il pendolo sulla cappa del camino. «Dormite, bambini, dormite, bambini. Toc!» Allora, finalmente chiusero gli occhi sulla loro giornata felice e la pendola si mise all'unisono con il loro quieto respiro. Il signor Banks, seduto nel suo studio, stava rossando con un giornale sul viso. La signora Banks attaccava dei bottoni nuovi sul suo vecchio soprabito. «Stai ancora pensando a cosa avresti potuto fare se non mi avessi sposata?» domandò. «Che cosa?» disse il signor Banks svegliandosi. «Ah, ma no, sarebbe troppa fatica. E adesso che Mary Poppins è ritornata non dovrò più pensare a nulla». «Oh, bene», rispose la signora Banks cucendo allegramente. «E io cercherò di istruire Robertson A.» «Istruirlo? Su che cosa?» si informò il signor Banks quasi addormentato. «A non darti una scarpa nera e una marrone, naturalmente». «Oh, non farei niente di tutto questo», replicò il marito. «Il fatto ha destato molta ammirazione nel mio ufficio. Le porterò sempre così per l'avvenire». «Oh, davvero?» disse la signora Banks con un sorriso di felicità. Tutto sommato ella capiva che suo marito era contento di essersi sposato e adesso che Mary Poppins era tornata, ella gli direbbe sempre più sovente. Giù in cucina c'era la signora Brill. Il poliziotto aveva appunto condotto Elena a casa e si era fermato per prendere una tazza di tè. Quella Mary Poppins, osservò sorseggiando, oggi c'è, domani non c'è, proprio come una spola. Oh, non dite così, disse Ellen, sorseggiando forte il suo tè. Io credo che questa volta sia venuta per rimanere. Il poliziotto le diede il suo fazzoletto. Forse rimarrà, le disse teneramente. Non si può mai dire, sapete? Oh, io lo spero proprio, sospirò la signora Brill. Questa casa è una residenza modello quando c'è lei. Lo spero anch'io. Ho bisogno di riposo, disse Robertson Hay alle scope. E si strinse nello scialle della signora Banks e andò di nuovo a dormire. Ma ciò che sperasse Mary Poppins nessuno di loro lo sapeva, perché, come tutti sanno, Mary Poppins non diceva mai niente a nessuno.